451 frammenti sonori 2023, così sembra, insomma, per lo, in termini, insomma, di calendario. Tornato, insomma, Max Macchia, che ovviamente, insomma, vi augura buon anno soltanto per questo giro, poi dal prossimo, cioè, sì, saremo pienamente dentro dal 2023, che suona sempre strano, insomma, da quando c'è questo 2-0. Sì, come dire, sì, nel millennio, per essere millenaristi, suona strano da dire. Nel frattempo comunque faccio e ricambio gli auguri di buon anno fatti da Salvatore, che chiaramente, insomma, ha condotto fino adesso con la sua bella trasmissione musiche dal mondo. E beh, questa sera invece 451, quando state ascoltando, no, per, insomma, tramite blog e quant'altro, insomma, potete ascoltare anche in altri momenti, ovviamente, la trasmissione. Beh, questa sera così, senza testa, fuori di testa, ma diversi da voi, sì, tanto per citare, insomma, un grande gruppo rock, e Psychout 451, Psychout, che è sì un momento, insomma, di fuoriuscita, ovviamente una fuoriuscita psichedelica, una fuoriuscita che ci porta dentro suoni che vanno a cercare un impatto sonoro legato sia per alcuni aspetti, insomma, alla potenza del suono, ma soprattutto a una potenza immaginativa che può dare questo suono. Ovvio che l'immaginazione, ovvio, per chi vagamente conosce 451 frammenti sonori, non è soltanto qualche cosa, insomma, di lucente, può essere anche qualche cosa di oppure tanto lucente da addirittura diventare abbacinante, oppure, come stavo dicendo, molto molto scura, quindi mancanza, insomma, di luce, ma anche questo, insomma, è un modo di colpire, di impattare in termini, insomma, di cerebrali, e poi tutto quello che consegue, insomma, rispetto anche alla fisicità, no? Questa idea, se vogliamo, appunto, molto molto generica da una parte, appunto, della psichedelia o delle psichedelie, e dall'altra che appunto con questa genericità ciba e alimenta ulteriori, appunto, psichedelie, ulteriori anche deliri, perché no, legati appunto al mondo di suoni, che ovviamente, insomma, si fanno di allucinazioni, gli stessi suoni, insomma, ma senza, insomma, trovare per forza un dialogo diretto con insomma, quello che sono l'uso di sostanze stupefacenti. Non è solo quello, ma è anche, appunto, un modo di porsi, un'attitudine, insomma, rispetto al suono, forse più che alla composizione, visto che tante volte, insomma, è quello che diventa poi materiale di sperimentazione, appunto, per rendere il tutto piuttosto allucinante. Moi Escalantes, un progetto molto molto interessante, che si ciba tanto di jazz, ovviamente sul lato free improvvisativo, quanto di appunto psichedelie, e quanto anche di suoni urticanti, metallici, noise, e quindi un miscuglio che diventa veramente, insomma, quasi insopportabile in alcuni aspetti, un'insopportabilità data, appunto, da una sopportazione che viene colmata, e appunto poi si va verso una trove. In questo caso lo Psychout, insomma, c'è, come con Escalantes. D'altronde, il disco da cui andiamo a pescare per iniziare, appunto, questo 451 frammenti sonori, si chiama San Vitus Dance, quindi in effetti c'è tanto di danza di San Vito dentro queste musiche, dentro questi suoni così appunto danzabili, ma soprattutto insomma danzabili in termini mentali, quindi anche collegabili poi a quello che è un tutt'uno con la fisicità, appunto, è collegata appunto al concetto di fuoriuscita, di appunto psichedelie che vanno ad impattare in maniera, come dicevo prima, abbastanza o tanto generale da creare appunto una sorta di allucinazione. Moi Escalantes. lavoro veramente superlativo quello di Moi Escalantes, uno dei progetti veramente che probabilmente insomma lasceranno il segno per 2023, così non facciamo i dischi dell'anno, dell'anno prima, ma lanciamo già quelli che saranno i dischi del 2023. Cosa che non amo particolarmente fare, e non quella di lanciare, ma quella insomma di lanciare a ritroso, ma questi insomma sono più fattacci miei, come dire, no? Più idiosincrasie che ci sono da queste parti, però insomma di fatto un'idiosincrasia che ci porta insomma a vedere, ecco, oltre quello che appunto è stato, e magari appunto con Moi Escalantes ci porta così a vedere quello che potrebbe succedere in termini appunto di sperimentazione, che già sta succedendo insomma in termini di sperimentazione tra metal, psichedelie, canto, allucinato a modo insomma di sciamani impazziti dentro appunto una sorta di urbanizzazione forzata e portata appunto a una sorta di allucinazione appunto tutta poi anche urbana, appunto, come vi dicevo, urbana perché è attraversata da suoni che ci riportano insomma a suoni metallici, a un drone che sì, fuoriesce anche da quelle che sono coordinate date dalla modernità, però di fatto insomma anche un utilizzo dell'improvvisazione con tanto anche di qualche elemento elettronico ci porta verso poi un linguaggio che si fa per molti versi universale, riesce insomma a essere tale pur avendo insomma una specificità, un peso specifico piuttosto insomma notevole, ecco, la pesantezza appunto di cui vi accennavo prima, e pesanti come erano pesanti, splendidamente pesanti di Earth, primi Earth che con Fast 3 toccavano uno dei punti massimi di quel linguaggio che andava tanto a impattare con doom metal, il drone, il noise e forma appunto di così deviazione psichedelica quasi parossistica in alcuni pezzi, come appunto quello che ascolteremo adesso appunto da Fast 3, dove regna appunto un sovrano, un drone piuttosto noise. Stiamo parlando insomma di un disco di 30 anni fa, quindi farlo insomma oltre ovviamente a minimalisti minimalisti, massimalisti insomma barra massimalisti appunto storici, era faccenda insomma di Finn Niblock eccetera, Tony Corrad, ma dentro quel rock, e tra l'altro molto vicino insomma anche a quello che all'epoca era molto molto famoso come stoner rock o appunto metal, doom metal, era qualcosa che primissimi a sperimentarlo furono appunto gli Earth, poi quasi di pari passo insomma Sanno, e continuando insomma poi dronando, metal dronando nelle faccende insomma che ci portano fino ai nostri giorni. Ma andiamo appunto a trovare questa storica formazione appunto gli Earth. Beh, ve l'ho detto, insomma, che saremmo stati anche senza testa, in effetti senza testa è proprio l'artista che ci siamo sentiti in proprio adesso, insomma, pezzo d'altro notevolissimo e senza testa e così, in maniera curiosa, uno svedese, ecco, un certo Jonas Rosen, conosciuto insomma nell'ambito dell'impro però più vicino al noise, senza insomma tanti fronzoli che insomma per molti aspetti così potrebbero anche accompagnare alcune faccende legate a così forse a un freak che si mischia anche con un certo modo di intendere il prog, se pensiamo insomma ad alcune insomma delle formazioni anche che ultimamente insomma stanno solcando insomma territori, soprattutto insomma in Inghilterra, in New Jazz, anche esiti piuttosto interessanti. Beh, per quanto riguarda Jonas Rosen, si va insomma su un carattere invece decisamente più legato non soltanto tra l'altro al noise che l'ha visto insomma con il progetto Senza Testa senz'altro muoversi alla fine degli anni zero fino ad arrivare insomma ai nostri giorni scusate, ma di fatto insomma ha preso anche una sorta di deriva di impatto legato a quelle che sono visionarietà, ecco, psichedeliche legate anche così a viaggi forse anche fisici, perché no, verso orienti magari inventati, una sorta di raga music che è molto comunque ha molte molto un impatto molto fisico, ecco, in questo senso dicevo appunto senza fronzoli, ecco, ma mentalisti, ecco, potremmo dire, o se di mentalismo si tratta per quanto riguarda Jonas Rosen, è un mentalismo talmente spinto appunto da farci quasi incappare in una sorta di danza così forse anche involontaria, perché no, anche fisica. Allora vi lascio, anche perché insomma la voce sta andando insomma da qualche altra parte, anche questa. Vi lascio con un progetto, vi lascio per qualche minuto ovviamente, con un progetto decisamente interessante che vi dirò insomma tra poco. Adesso vi faccio ascoltare quest'altro momento di serio insomma così devianza, potremmo dire, sonora, linguistica anche, perché no, per tanti aspetti, visto che si incontrano vari linguaggi e vengono fusi in una maniera piuttosto insolita, quello di Anne Waldman, David Braja Waldman, anche qua gioco insomma tra parenti che non sono parenti, però il nome insomma rimanda sicuramente, Waldman, Ayang Kim e Daniel Carter, storico Daniel Carter e Ambrose Bay. Don't do it. thunder said, don't do it. And symmetry said, hey, hey, hey. And gambles to the flight of the asteroid. Of the asteroid. A person woven of nimble words, so mere fractions of them are phonemes of ag and r and ra as antidote to gloom. Woven of white poppy, gar ra ra sa ma ma, gar ra ra sa ma ma, whist whist whist. Person woven of Morse code of digitizing distance now, distance now, and gambles to the flight of the asteroid, of the asteroid. Trajectory thick, distance now, distance now, distance now, and of the nimbus of a swirl. Light years already happened, but not yet. Slow down the tinsel neon with Moses in the bulrushes. Who believe and summon here? Can't drink your descriptive power. A candle, an orange Halloween bucket with a happy face. Who would glower when you get too tight? Person woven too fast. They said of her, still could burn. Tightened up too fast, too hard, too fast, and still moving. Person woven from what hovers at the doorway, pawing at the ground. Person woven, mundane. Person woven like monkey kinetics or too cocksure. Fond and tentative, go back at the doorway, lurches forward or back. Wouldn't go, go, go, wouldn't go, wouldn't go, wouldn't go, wouldn't go, wouldn't go, go, wouldn't go, wouldn't go, go, go, wouldn't go, wouldn't go, go. And then would, then wouldn't, wouldn't, wouldn't. Whist, whist, whist, whist, whist. Who believe you in your lab coat? Your precision instrument needs greater testing and probe. Person woven of solving and not solving, and pressure of a bounce through a threshold to celebrate decibels. Country disappears into the undergrowth, roots up to pull your psyche down under, dirt and leaves pulling down. Sorceress cursed of no sensuous rest. Accretion's musical memory, the earliest was Socratic rhythm, her timing, her measure, her insulin wars. Huguenot ancestry, mystery, or mastery of survival coding. Will you run? Will you drive? Will you drive? Will you swim? Will you dive across a lifetime of persecution? Female of all females would run, swim, and breathe across the boundary, hounded, hooded, persecution. Person woven of forest time and running. Person woven of savannah metrics. Person woven of a violinist who played and died away before the strings grew thin and weak. Person with 1,400 cubic centimeter brain, entopic brain, gestation of pliant harmonics in the place within place that is pre-recorded desire. Oh, Asia! A cheetah-like sunny house cat in her stripes would pounce upon. Edenic brain, inebriant one. Sun, sun, sun. Sun, sun, sun. Sun, sun, sun. Person woven of monoliths, maybe mere. person of a mirage, the would-be fate of all ancestor, sees person that is core of galaxy she seizes. Our Milky Path, a poetics of influence, bricolage of sensibility made for future fur bits. Person woven of monoliths, still standing but fall down. Proprietary, then modest, clean up messes the body makes mockery of. And you can't just go around killing and conquering persons. You can't just take them out at midnight and rape and slaughter and kill persons. Build it, Pleiades said, feeling alone. I, he wasn't seeing your vision. I, he wasn't seeing your vision. He wasn't feeling alone, first dreaming. Durandera, sing it in, call upon you, Pleiades, sing it in. You alone sitting and crumbled by night. And what is best for this, and into the crystal mirror, into the sky, see yourself. Weird, because that night there was this other thing going on, this party in a rented party house not far away, just down the road, and a lot of rhythmic, let's say pop music, and a lot of bass sounds and going. Sorcerer's misery, cool down the trays and truth serum of unsolved Jerusalem, injured in truth, as if the world can't face truth, human, a bond of the bestial, ferocious claws, elongated claws, against the face of yours and yours, imprinted, cleft, fester, the back of my neck. I carry all these persons inside who walk my spine, digress with small carnivores, rhythms, broken vertebrae. Veramente notevolissimo, disco eccezionale questo di Anna Waldman insieme a Devin Brajan Waldman, come dicevo prima, appunto due insomma Waldman che si incontrano, una è una grande insomma della Beat Generation, seconda generazione, anche se poi di fatto viene battezzata, perlomeno in termini discografici, da Allen Ginsberg nel 76. Si sente insomma quanto poi certa Beat Generation sia entrata in quel discorso tanto legato a un certo modo di intendere il punk, come all'inizio insomma poteva intenderlo appunto Patti Smith con la produzione di John Cale, tra l'altro, tanto poi invece ha quel flusso poetico, la poetry che si va ad unire un altro flusso sonoro che è lato da un'improvvisazione più o meno libera, ma comunque è sempre emancipata da quello che è appunto un linguaggio che non va verso appunto questa fiume carsico di parole, di suoni che si fanno anche spesso insomma astratti e quindi diventano in questo senso anche psichedelici. Ma tornando, se questa è una pesantezza astratta, perdonatemi l'ossimoro, quella di Anne Waldman insieme a Devin Branja Waldman, a Young Kim, Daniel Carter e Ambrose By, quella di invece Matthew Bauer e Richard Youngs, due storici, Noiser, poi Richard Youngs si è dato anche a un folk seriamente insomma allucinante, è allucinato, mentre Matthew Bauer è da noise vicino a certa a certo, potremmo dire, industrial psichedelico, insomma, anche se anche qua andiamo su termini molto molto vaghi, anche un po' fuorvianti, ma tanto per farvi capire insomma da che parte stessero o da che parte non stessero insomma sia Matthew Bauer che Richard Young, quando poi dopo qualche anno vari progetti insomma sia di Youngs che di Bauer che magari appunto ascolteremo nella seconda ora di 451 frammenti sonori, probabilmente insomma la prossima settimana, perlomeno per quanto riguarda Matthew Bauer, si incontrano a metà degli anni 90, escono con un disco Sight Rims decisamente fuorviante, nel senso psichedelico del termine, nel senso di perdita di coordinate, con tanto di noise, anche non soltanto noise di matrice insomma rumorista, industrial, ma anche noise rock, e quel strani filamenti di Young, forse più che di Bauer, di Richard Young, con questo folk ancestrale rumoroso nel tornare appunto veramente a una sorta di materia, di materiale, insomma, protostorico, potremmo dire, in questo senso, perdonatemi insomma l'iperbole, ma per intanto per spiegarvi musiche inspiegabili, e per questo insomma estremamente belle, oltre che affascinanti. Vi lascio appunto e vi rimando alla seconda ora di 451, probabilmente, come accennavo prima, la prossima settimana. Ciao, fate i bravi per il momento, da Max Macchia, ovviamente.